fiorano alla mente dei frammenti chissà sparsi dentro al cassetto, speranze e sogni, il mio dalle illusioni cammino solo per strada a tentoni, nell'aria soffia il vento debole, la noia tormenta la malinconia, e di non ha niente da perdere, il sorriso è bieco al tempo stesso solo c'è nascono odio di esperienza, false lacrime ne scopisco il volto carico di stanchezza, sempre la polvere si è alzata a terra, surreali tradizioni sostengono una falsa guerra per sé partenza, infine si scala segnali all'ennesima sconfitta, fugando nero miago dalla soffitta fitta e la nebbia in cui mi avvolgo, scordo lo sguardo tra mille sacrifici, sentendo l'urlo nella casa senza guidarti affici, benevoli ma sfuggenti, le idee non si chiariscono, mi tremano le mani all'avvenire del crepuscolo, sono pieno di rancore e rabbia, vedo il paese che non cambia, il timore se è fatale, è giunto il momento di lottare contro ogni presentimento, amargo che è il vero che è, che ho dentro.